La grande storia in prima serata presenta giorni di rabbia che mi fanno vivere male e fanno ragionare la mia mente criminale. Un vortice mortale che sembra senza fine, si esaurisce lentamente in mezzo alle mie rime, ma sembra senza senso, ma il discorso è logico. Il mio malumore per fortuna è cronico, per quei burattini che si credono essenziali. Bevi pure la Red Bull, tanto io metto le ali. Povero pulotto col giubbotto in piombo stretto, che non sa se a fine turno tornerà sotto il suo tetto. Pronto a far pazzie e a fare scorribande, la cosa più sicura è che non toglierò le tende. Odio rancori, gli sfalsi di umori, Franky francamente si è rotto i coglioni. Odio rancori, gli sfalsi di umori, Franky francamente si è rotto i coglioni. Basta stronzate, non ne voglio più sapere, mollaci uomo. Come puoi giudicarmi se nemmeno sai chi sono? Niente mi hai dato, e adesso che pretendi? Ricevi niente, evoluzione degli eventi attendi. Che mi scenda la carogna dalla spalla e forse dopo se ne parla. Parla pure con gli spiriti ma scompari. Che ti conviene, mangiatore di carogne proprio come le iene, avvoltoi e sciacalli. Qui troppi polli e troppi pappagalli, troppe volanti e troppi pochi sballi. Spazi d'umore dovuti a persone che nascondono troppe cose, privandole del sole. Odio rancori, gli sfalsi di umori, Franky francamente si è rotti i coglioni. Odio rancori, gli sfalsi di umori, Franky francamente si è rotti i coglioni. Un altro tiro se no tra un poco svengo. Non trovi mai nessuno che ti dice oggi svendo. Sono dei tamari che si credono Escobar, che fanno tanti fighi ma vanno a casa in tram. Tutto sto bla bla di gente che non sa se è la vita vera o il ballo del qua qua. Intanto eccomi qua a dire ciò che penso, sembra tanto illogico invece ha tutto un senso. Odio rancori, gli sbalzi di umori, Franky francamente si è rotto i coglioni. Odio rancori, gli sbalzi di umori, Franky francamente si è rotto i coglioni.